del tuo popolo. Allora prendiamo in mano il nostro libro intitolato Il Falsario, la lotta quotidiana contro Satana. Come già vi ho spiegato, cari amici, è un libro che vi dà questa grande possibilità, a mio parere, di sapere esattamente cosa insegna la Bibbia e cosa insegna il Magistero della Chiesa su questa realtà molto pericolosa per noi, che è il maligno. Molto pericolosa per quale motivo, cari amici? Per il titolo stesso di questo libro, è il falsario, cioè presenta se stesso sotto mentite spoglie. Credo che ben difficilmente si potrà trovare un titolo più pertinente per quanto riguarda il maligno, perché l'inganno è la sua arte sopraffina. In pratica questo titolo, il falsario, riflette, sia pure con una espressione molto calzante, perché da noi chi è il falsario? Colui che ti rappresenta un quadro falso come se fosse quello vero, oppure colui che ti presenta una banconota falsa come se fosse vera, per cui soltanto un grande intenditore riesce a distinguere una banconota falsa da una vera e riesce a distinguere un quadro falso da un quadro vero. È il falsario. È perfetto nel presentare appunto il male, è bravissimo, insuperabile nel presentare il male sotto forma di bene, ed è impareggiabile nel camuffarsi da benefattore presentandoti le false felicità come se fossero vere e presentandoti la via del male come se fosse una via di felicità, una via di realizzazione. Fra l'altro, come ogni falsario, si nasconde, cerca di non farsi conoscere, cerca di mimetizzarsi nel nulla. Per esempio un pittore che fa falsi quadri, certamente si guarda bene da mettere la sua firma sui falsi quadri, mette la firma dell'autore che lui sta imitando, no? Ma lui come falsario si nasconde, così fa Satana, cioè è perfetto nelle imitazioni, nel falsificare le cose, ma nel medesimo tempo si nasconde in modo tale che nessuno sospetti di lui. La sua grande abilità consiste nello scomparire, la sua grande abilità consiste nel far sì che la gente pensi che lui non ci sia o che comunque si abbiano idee sbagliate su di lui. Specialmente nel mondo cattolico, nel mondo dei credenti. Dunque nel mondo dei non credenti, sarà molto facile per voi trovare chi nega il demonio, ma nel mondo dei credenti è un po' difficile dire negare il demonio, perché talmente sono pieni di testi biblici che i tentativi che sono stati fatti, che qualcuno fa, per dire che il demonio è soltanto un simbolo del male, urta contro i testi biblici e anche l'insegnamento della Chiesa. Allora lì Satana usa un'altra tattica, si presenta come inoffensivo, si presenta come colui che poi un domani si convertirà, poverino, eccetera, no? Quindi le false rappresentazioni di Satana sono molto diffuse in certi ambienti cattolici, soprattutto legati ai gruppuscoli del sottobosco, dove magari invece di nutrirsi con la sana dottrina ci si nutre con pseudo-rivelazioni private. Allora, noi è chiaro che affrontiamo questo tema naturalmente con, dal punto di vista della sana dottrina, in modo tale che uno possa dire questo è l'insegnamento di Dio, questo è l'insegnamento della Chiesa. D'altra parte, soltanto la divina rivelazione ci ha fatto conoscere chi è il maligno. Bene, cari amici, noi adesso siamo arrivati al capitolo terzo che abbiamo dedicato all'origine del male. Abbiamo detto che il male ha origine nel momento in cui l'angelo più grande, più perfetto, più luminoso dal punto di vista della natura e naturalmente quelli che l'hanno seguito si sono rifiutati di sottomettersi a Dio. Di questo peccato degli angeli, di questa caduta degli angeli, ne parla sia la Bibbia sia l'insegnamento della Chiesa. Abbiamo già ampiamente esplorato questo campo, cari amici, ma abbiamo dedicato una lezione intera, cioè quella precedente a questa, per spiegare come questa scelta degli angeli sia stata irrevocabile. Una scelta radicale e irrevocabile, prendo parole dal Catechismo della Chiesa Cattolica. Per quale motivo, mentre a noi uomini ci siamo chiesti e dato tutto il tempo della vita per deciderci per Dio, e siamo salvi, rifiutare Dio e ci condanniamo eternamente. Allora, per questa decisione con la quale o decidiamo per Dio o rifiutiamo Dio, ci è dato il tempo della nostra vita. Mentre per quanto riguarda gli angeli, il tempo della prova è durato un istante. Dice San Tommaso d'Aquino che nel primo istante gli angeli furono creati ed elevati in grazia, ma prima di essere elevati alla visione beatifica sono stati sottoposti alla prova ed è nel secondo istante, dice San Tommaso d'Aquino, che alcuni di essi, non si sa quanti, forse un terzo, se vogliamo seguire l'insegnamento o se vogliamo l'immagine dell'Apocalisse, dove si afferma che il drago precipitò sulla terra trascinandoci un terzo delle stelle del cielo. Dunque, nel secondo istante, dice San Tommaso d'Aquino, alcuni scelsero di sottomettersi a Dio, altri invece volevano diventare Dio al posto di Dio. Di questo desiderio di Satana di essere Dio al posto di Dio noi abbiamo traccia, abbiamo detto, nel libro del Genesi, laddove si dice, appunto, il serpente che tenta Adamo ed Eva insinua che se mangeranno dell'albero del bene e del male, cioè se saranno loro a decidere ciò che è bene e ciò che è male, diventeranno come Dio. Ed è anche nella tentazione di Gesù nel deserto che si vede, e naturalmente noi approfondiremo moltissimo questo testo quando vi giungeremo, si vede il desiderio del demonio di essere adorato. Ti darò tutto ciò che c'è sulla terra, tutti i regni della terra, se tu prostrato mi adorerai. Ecco dunque, cari amici, la sete di Satana di adorazione, cioè di essere Dio al posto di Dio. Tutto questo che abbiamo detto sulla caduta originaria degli angeli, sulle motivazioni di questa caduta, cioè il rifiuto della sottomissione a Dio, e quindi la superbia, la disobbedienza, l'orgoglio, e tutto questo è naturalmente dottrina di fede, di questa caduta originaria degli angeli, ed è di fede che Dio non ha creato il demonio, ma ha creato gli angeli buoni che hanno pervertito se stessi con questa libera scelta. Tutto questo è dottrina di fede, ma è dottrina di fede, cioè appartiene al patrimonio della nostra fede anche il fatto, abbiamo spiegato, che questa scelta degli angeli contro Dio, di una parte degli angeli contro Dio, questa scelta è irreversibile e quindi il demonio non si può convertire, noi aggiungiamo, neanche vuole convertirsi. Infatti abbiamo citato il punto del Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 392 che dice: tale caduta degli angeli ribelli, di questi spiriti creati, consiste di aver rifiutato Dio e il suo regno con libera scelta, radicalmente e irrevocabilmente. Per cui, cari amici, in questi due avverbi, irrevocabilmente e radicalmente, si esclude qualsiasi possibilità di conversione dei demoni. E la medesima cosa vale anche per le anime dannate. Infatti, insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica al 1022 che col momento della nostra morte è finito il momento di meritare, e quindi immediatamente le anime vengono inviate o in paradiso o in purgatorio, che è però temporaneo, o all'inferno. La impossibilità dunque che gli angeli si convertano, che gli angeli caduti, cioè i demoni, si convertano, sta nel carattere radicale, irrevocabile del loro rifiuto di Dio. Ma nell'insieme, cioè sia per quanto riguarda i demoni, sia per quanto riguarda le anime dannate, sta soprattutto la parola di Cristo che parla del fuoco eterno. Abbiamo citato Matteo, capitolo 25, versetto 41, quando Gesù pronuncia le parole che speriamo di non sentire mai per quanto ci riguarda: via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Noi abbiamo anche cercato, cari amici, di capire per quale motivo la scelta degli angeli ribelli è irrevocabile, e abbiamo spiegato che la natura angelica è capace, il fatto di essere puro spirito rende appunto un essere creato puro spirito capace di una decisione assoluta, totale, irrevocabile in un solo istante. Ecco perché diverso è il comportamento di Dio nei confronti degli angeli caduti e nei confronti degli uomini, perché i puri spiriti sono capaci in un solo istante di una scelta radicale e irrevocabile. Noi uomini invece, prima di arrivare alle scelte definitive, abbiamo bisogno di tempo. E quindi il tempo della vita è il tempo in cui noi maturiamo la nostra scelta irrevocabile per Dio o il nostro rifiuto irrevocabile di Dio. E abbiamo concluso, cari amici, citando il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 393, che dice esattamente queste parole che dobbiamo tenere ben presenti: a far sì che il peccato degli angeli non possa essere perdonato è il carattere irrevocabile della loro scelta e non un difetto dell'infinita misericordia divina. Non c'è possibilità di pentimento per loro dopo la caduta, come non c'è possibilità di pentimento per gli uomini dopo la morte. Ecco, detto questo, credo che bisogna anche sottolineare il fatto che loro stessi hanno maturato una scelta irrevocabile, e quindi non è che non possano convertirsi, è che non vogliono convertirsi. C'è qualcosa di più radicale, c'è l'odio, odio eterno. Noi qualcosa del genere, qui su questa terra, lo sperimentiamo quando giuriamo odio eterno a una persona. Spero che nessuno di noi abbia mai provato questa esperienza terribile, ma forse possiamo immaginarcela questa una realtà del genere, no? Giurare odio eterno a una persona. Da parte, quando noi uccidiamo una persona per odio e vogliamo la sua eliminazione, c'è l'odio eterno, no? L'odio irrevocabile, l'odio totale fino alla sua distruzione. Questo odio eterno è esattamente il veleno di Satana, cioè lui ha odio eterno verso Dio. E per Satana un grande trionfo poter sottrarre le anime a Dio. Ecco dunque, cari amici, qual è l'esatta dottrina della Chiesa, che poi è la dottrina di Cristo, che è ben diversa da certe espressioni che circolano, cari amici, e secondo cui il povero diavolo, anche il diavolo è una creatura, anche lui un domani potrebbe convertirsi. Queste sono idee mandate in giro da persone sprovvedute o da persone in cattiva fede o dal diavolo stesso. Perché in genere questi insegnamenti qui fanno sempre capo a qualche pseudoveggente che si presenta come colei che parla con la Madonna, con gli angeli o con i santi, poi invece è ispirata dal maligno. È il maligno che diffonde idee di questo genere, spesso attraverso falsi veggenti, cioè idee che inneggiano la sua conversione, la sua eccetera eccetera, che alla fine il diavolo si convertirà. Ecco, non c'è nessuna traccia nella scrittura e nell'insegnamento della Chiesa per quanto riguarda queste dottrine, ma nella scrittura, soprattutto nella parola di Cristo, c'è la chiara affermazione della eternità dell'inferno. Non dimenticate che viene chiamato maledetto il maligno, il maledetto. Da Dio stesso viene chiamato il maledetto. Dobbiamo prendere atto di questa realtà perché, o Dio, chi ha informato su questa realtà? L'unico informato è Dio. Dio ce l'ha rivelata, dobbiamo sostituire noi la nostra dottrina, dobbiamo preferire le nostre idee a quanto Dio ci rivela. Cerchiamo di mettere la testa a posto, cari amici, di chinare la testa. Prima di affrontare l'ultimo paragrafo del terzo capitolo, intitolato Il drago precipitato sulla terra, vorrei, cari amici, fare una breve riflessione su questa affermazione che viene fatta che l'inferno c'è ma è vuoto. Ancora una volta una riflessione su questo slogan pieno di stupidità e di irresponsabilità. Intanto questa affermazione è eretica, perché è di fede che esiste Satana. Quindi è di fede ed è l'insegnamento ordinario della Chiesa riguardo agli angeli caduti, pervertiti in demoni, e quindi nell'inferno c'è sicuramente Satana e gli angeli ribelli, e ci sono eternamente. Vi ho detto che l'inferno non è necessariamente da intendersi soltanto come un luogo, ma anche come uno stato, un modo di essere, per cui anche quando Satana agisce qui su questa terra, non è che lui sia fuori dall'inferno. Anche quando Satana agisce su questa terra, l'inferno ce l'ha dentro, ed è nella sua perversione. È lui un essere infernale, è lui che fa sì che l'inferno sia inferno. E quindi la sua presenza in questo mondo è per rendere simile questo mondo all'inferno. E quando lui è presente in noi, ha preso possesso del nostro cuore, rende presente in noi l'inferno. Con l'odio, la cattiveria che c'è quando noi ospitiamo Satana e i suoi sentimenti nel nostro cuore. Allora, cari amici, alcuni si salvano, e fra questi ci sono diversi teologi, e fra questi anche von Balthasar, cercano di salvarsi in calcio d'angolo, ma chiudendo gli occhi di fronte alla realtà, dicendo che comunque fanno un'operazione indebita, di forzatura dei testi biblici. Infatti questi signori affermano che tutti i testi biblici che parlano dell'inferno servono soltanto per metterci in guardia, dicendoci che l'inferno è comunque una possibilità, dicono loro. Ma non è detto che sia una realtà. Allora, a questo riguardo bisogna fare una riflessione pertinente. Cioè, l'inferno è una possibilità o è soltanto una realtà? O è anche una realtà? L'inferno è soltanto una possibilità o è anche una realtà? La risposta è molto semplice. Che l'inferno è diventato da possibilità, è diventato realtà per gli angeli ribelli. L'inferno da possibilità è diventato realtà per gli angeli ribelli. Per quanto riguarda l'uomo, l'inferno da possibilità diventa realtà quando noi, commettendo il peccato mortale, non ci pentiamo e moriamo impenitenti. Allora, l'inferno è già venuto, è già diventato da possibilità una realtà per gli angeli ribelli. Per gli uomini l'inferno da possibilità diventa realtà quando, avendo compiuto un peccato mortale, si muore impenitenti. Allora, lascio verificare a voi, cari amici, se evidentemente questo lo sa soltanto Dio, però guardiamo la nostra vita. Non abbiamo forse noi nella nostra vita commesso dei peccati mortali? Ebbene, ringraziamo Dio per la grazia della conversione. Ma tutti noi sanno che la risposta alla conversione richiede tanta buona volontà, richiede anche sudore di sangue, richiede anche la rinuncia al male. Noi stessi possiamo dire che noi stessi che abbiamo rinunciato al male e che abbiamo ripudiato il peccato per ricevere la grazia della conversione e la grazia della soluzione, noi stessi ci rendiamo conto che tuttavia avremmo potuto anche cedere al male, rassegnarci al male e rinunciare alla conversione, appiattirci sul male. Noi stessi capiamo che questa qui è una possibilità molto concreta e difatti molti non si convertono, almeno apparentemente rifiutano Dio, non cambiano vita. Allora vedete, cari amici, come è subdola questa distinzione che si pone dicendo che l'inferno sarebbe una possibilità ma non una realtà. Attenzione, si risponde a questa obiezione dicendo che l'inferno da possibilità è diventato realtà per gli angeli ribelli. E l'inferno da possibilità diventa realtà tutte volte che noi uomini commettiamo un peccato mortale e non ci convertiamo e moriamo impenitenti. A questo riguardo, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, basta un solo peccato mortale di cui non ci pentiamo per andare all'inferno. Ecco dunque quando è che l'inferno per gli uomini da possibilità diventa realtà. E quando cioè, avendo commesso un peccato mortale, avendo cioè rifiutato Dio, rifiutiamo la grazia della conversione. Quindi c'è poco da scherzare su queste tematiche, che sono, come noi le portiamo avanti, sono molto vicine all'esperienza della gente, perché tutti noi, tutti gli uomini, anche le persone più semplici, sanno benissimo che cos'è il bene e il male. Sanno benissimo quando dicono sì alla propria coscienza e quando dicono no alla propria coscienza. Sanno benissimo quando soffocano la coscienza per poter fare il male tranquillamente. Tutti noi lo sappiamo quando avviene l'uccisione di Dio in noi. È una realtà che sperimentiamo molto bene. È una realtà che abbiamo nel sangue, con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. Noi sappiamo benissimo come ogni giorno possiamo tradire Dio come l'ha tradito Giuda. Noi lo sappiamo bene come tutti i giorni possiamo voltare le spalle a Dio come le ha voltate Giuda. Noi stessi ci rendiamo conto com'è possibile rimanere impenitenti. E senza la grazia della conversione che forse ci ha ottenuto dalle persone che hanno pregato per noi, saremmo rimasti nella morte. Adesso, cari amici, affrontiamo un nuovo tema che è molto importante, ed è quello del quarto paragrafo del capitolo terzo, siamo a pagina 25. E cioè, ci poniamo il problema, un problema che riguarda il governo di Dio rispetto al mondo e rispetto alle anime. Ci poniamo un interrogativo che è in qualche modo angoscioso. Ed è questo. Per quale motivo Dio, avendo gli angeli ribelli commesso il grave peccato, non li ha rinchiusi all'inferno, non permettendo loro di tentare l'uomo? Perché mai Dio ha permesso a Satana di tentare l'uomo? Domanda difficilissima. Forse la risposta vera, profonda, la sapremo in cielo. Qui su questa terra possiamo fare delle ipotesi. Evidentemente Dio ha voluto lasciare a Satana le sue possibilità, perché Satana ha sfidato Dio proprio riguardo all'uomo. Satana propone se stesso come Dio all'uomo, Dio ha accettato la sfida E naturalmente, nella sua visione, nel suo governo del mondo, questo lo ha fatto per umiliare il maligno. Lo ha fatto per mostrare appunto come l'uomo, nonostante che purtroppo anche Satana avrà le sue prede, tuttavia alla fine dei tempi ci sarà questa moltitudine immensa dei santi, dei beati, di coloro che sono partecipi della natura divina, e lo saranno per libera scelta. Quindi questo è il tentativo che darei io di risposta, perché Dio non ha rinchiuso Satana all'inferno non permettendo di tentare l'uomo. Risposta in due parti. Prima risposta che darei è proprio questa, perché Dio ha voluto accettare la sfida di Satana e così umiliarlo con la sua vittoria, e poi subordinatamente darei anche un'altra risposta che è a completamento, e cioè affinché anche l'uomo, mediante il combattimento spirituale, potesse conseguire la palma della vittoria. Ecco, questo è il problema che ci poniamo a pagina 25. Non so se riusciamo a esaurirlo questa mattina, adesso incominciamo comunque a leggere e a commentare. E ti sarai reso conto, scrivo, che l'origine del male non può essere in nessun modo ricondotta a Dio, che ha creato buone tutte le sue creature. Essa va fatta risalire alla libertà limitata sia degli angeli come degli uomini, la quale, libertà, in quanto finita, è esposta al fallimento, come osserva San Tommaso d'Aquino. Per impedire il male, Dio avrebbe dovuto evitare di creare esseri liberi e intelligenti, ma in questo modo avrebbe tolto anche la possibilità di fare il bene. Dunque, perché è nato il male? Il male è nato perché Dio ha creato delle creature libere, e quindi la libertà limitata può anche fare degli errori, no? Ma alcuni di voi potrebbero dire: ma perché Dio ha creato delle creature libere? Ma evidentemente se toglieva la libertà, non solo toglieva la libertà di fare il male, ma avrebbe tolto anche la libertà di fare il bene. La libera volontà, scrivo, è necessariamente un'arma a doppio taglio. Se tu vuoi mettere una persona nella possibilità di divenire una tua amica, devi necessariamente lasciarle la capacità di dirti di no. L'amore è autentico se proviene da una libera scelta. Per ottenere il nostro amore, Dio si espone al rischio del nostro insensato rifiuto. Non c'è dubbio che Dio abbia osato moltissimo creando delle creature intelligenti e libere a sua immagine e somiglianza. È un rischio che i genitori conoscono molto bene, in quanto lo condividono con Dio. Non tutti i figli sono come vorremmo, e non pochi fanno versare lacrime. Forse invece ti riuscirà più difficile comprendere perché mai Dio, invece di racchiudere subito il drago insieme ai suoi angeli nell'abisso, come accadrà alla fine del mondo, vedi Apocalisse 20,10, gli ha lasciato libertà di azione su questa terra. E per oggi ci fermiamo qua, perché nella prossima catechesi approfondiremo questo problema. Questo è l'interrogativo che lascio ancora aperto e che su cui riprenderemo nel prossimo appuntamento, cioè: per quale motivo Dio, invece di rinchiudere subito il drago